mio che commuove chi ne sa. Sì. Proviamo. Sei tu, bestia? Quello io son, sì. E pagliaccio è partito? Quello è partito. Che fai così imparato? In quello che ho fatto? Eccolo, vergine di me. Fresco! Nome, Shaman, arrenda i detti tuoi!